paga la consumazione. Dopo clicca sopra il link www.passamilbicchiere.com. Guarda com'è vera, tempo sopra un reggaeton. Gine, coca, rum e gin, meglio ancora coca e rum. Cuba libre, fanta una tequila, boom boom. Tre ragazze, due signori, un avvocato e mezzo Gaudio. Sei peroni, quattro margarita, due avvocato e mezzo Braulio. Campari, whisky e Pinot, da Ghiri più Pampero, più Mojito, infine un Quadro. Heineken nella sinistra e Montenegro nella destra. Due litri di Sambuca rovesciati sulla testa. Cosa non va? Dime che pasa. Butta giù una desperata, se poi una casciasa. La mattina è lontana, il divertimento ti chiama. La notte è lunga e parte quando prendi in mano una Havana. Yo! Porta prima una Red Bull, poi un limoncino. Preferisci un amaretto oppure bevi un nocino? Decidi tu, chi non regge la pozione abbandona. È il nuovo re, si stappa più di una bottiglia di Corona. Tamarindo, pancia e cinar. Se cerchi una lista la trovi giù al bar. Aperol, Negroni, Capirini e J&B. Incominciano gli effetti quando canti l'R&B. Spilla una bionda pure rossa doppio malto. Voglio quella con il tasso alcolico più alto. Valentine's e Sheraton, litri che si sprecano. Teste che non pensano più a quanti soldi spendono. Giro di Barbera, Chianti e Dolcetto, Ramazzotti, Chardonnay, spuma, Chinotto e Prosecco. Brindisi di Beat, Bud, Bellis, Bacardi. Bevi tutto e avvisa a casa che stasera torni tardi. Baby drink it up. Di più. Voglio arrivare lassù, scolarmi l'ultima goccia per dopo piombare giù. Dimmi cosa c'è, se c'è non c'è, se c'è una cere. Se dammi mille miller, mille volte in un bicchiere. Richiedo grappa e vodka, le voglio dritte in bocca. Bevi che vediamo dopo quanta gente sbrocca. Pignacolade e champagne sui tavolini. Guinness e Becks, Calvi, Rosca e Martini. Assaggio un Long Island e lo gradisco. Poi bevo un Jack Daniel e digerisco. Si gusta meglio quando il cielo è già blu. In spiaggia davanti al fuoco scolandosi un Malibu. Stasera vedo alterato, yo. Sei troppo kitsch, mi sa che stavolta finisce Sex on the Beach, yo. Baby drink it up. Baby drink it up. Baby drink it up. Baby drink it up.